Convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Vi siete mai chiesti cosa poteva accadere? Sarebbe andata diversamente se aveste preso il treno invece di perderlo? E chissà che cosa si dirà di questa domenica, carissimo Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Giovanni. Chissà cosa si dirà di questa domenica, gli sliding door del campionato. Oggi lo scrivevano anche i giornali, chi si ferma è perduto, parlavano di Napoli-Inter, però secondo me vale anche per altri, vale domani anche per la Roma ad esempio, forse vale anche per la Juventus oggi, se non dovesse rialzarsi in maniera convincente, che dici? Beh, vale per tutti perché è una fase importantissima, la Roma non deve perdere terreno dalla Juventus, deve provare a stare attaccata fino al giorno della Befana, e è chiaro che sulla carta l'impegno è più difficile per la Juve, però attenzione, Sassuolo in grandi condizioni. Che ne dica Conte, la Juventus sì, poi ci sono quelle scorie lì magari nella testa che possono pesare, però abbiamo tempo per parlarne, Carlo. Io voglio dirvi il numero 800 24 0024, aspetto anche le vostre chiamate da casa, insieme vivremo intanto le voci di questo pomeriggio, sentiremo Montella, Petkovic a proposito di sliding door. Carlo, questa era forse la porta scorrevole per la Lazio, mi sembra di aver capito che Petkovic mangerà il panettone e probabilmente arriverà anche alla Befana. Ci voleva Klose, secondo me non ci voleva uno scienziato a capirlo. No, non ci voleva proprio uno scienziato, cioè semplicemente il più forte giocatore della Lazio, cioè quello che cambia la squadra. Ovviamente è un giocatore anziano, molto soggetto agli infortuni. Sì, molto soggetto anche, molto credo, Carlo, al fascino del mondiale che arriva, quindi massima attenzione, perché a giugno c'è da andare in Brasile, credo che da qui a giugno, Klose che è un grande professionista, però capisco anche che probabilmente la Lazio non possa essere in cima ai suoi pensieri. Ma sì, adesso vediamo se Klose riuscirà ad andare in Brasile. Normalmente normalmente si fa al contrario, no Giovanni? Cioè si gioca la prima parte della stagione e magari si tira indietro la gamba nella seconda. Magari Klose ha fatto il ragionamento inverso, ma no, io non credo. È un professionista plausibilmente serio, no? Quindi voglio pensare che, sai, che l'anno scorso non le ha mica giocate tutte, è chiaro che è un giocatore che ti cambia la squadra. Sì, il problema è che senza di lui la Lazio viaggia a media retrocessione, con lui a media scudetto, sì. E quindi questo secondo me spiega molto anche della crisi della Lazio degli ultimi due mesi. A proposito di sliding door, poi sentiremo Allegri, Benitez, Mazzarri, Conte, vivremo la vigilia di Juventus Sassuolo 18:30, cercheremo anche di catturare le voci proprio a pochi minuti dall'inizio della partita. A proposito di voci, c'è la prima di Petkovic, Sky Sport, subito dopo la vittoria della Lazio 2-0, doppietta di Klose, in questo pomeriggio. Sentiamo Petkovic. Qualche grammo ha perso, perché primo tempo abbiamo dominato, giocato bene, dovevamo e meritavamo fare anche qualche gol di più. Seconda, paura di vincere, gambe sono diventate pesanti, ma complimenti ai ragazzi perché non era una partita semplice, ho detto già prima della partita, è una partita dove si poteva solo perdere, adesso è tutto normale che abbiamo vinto, ma comunque per carattere, per impegno e soprattutto che abbiamo finalmente segnato e non abbiamo di nuovo subito, questi sono punti positivi. Giocato anche perso qualche facile, grammo di peso Petkovic, hai sentito Carlo, perché nel secondo tempo la sua Lazio ha un po' rallentato, gara però che era stracchiusa. Ti faccio sentire Allegri un paio di ore fa a Milanello, dove intanto c'è ancora Berlusconi che non è ripartito, si è presentato con Dudu e Gagliani, non c'era Barbara Berlusconi, a proposito di porte scorrevoli. Allegri: anche perché in quel momento lì c'erano non solo a Roma, c'erano altre squadre che mi avevano avvicinato perché sembrava che fosse il punto di lasciare il Milan, e così non è stato e quindi non ho nessun rimpianto, come ho detto la scorsa settimana. Sono molto contento di essere al Milan e di cercare di finire il lavoro nel migliore dei modi. Carlo, da 1 a 10 secondo te quanto dice la verità quando dice no, ma io alla Roma non ho rimpianti per aver scelto di restare qui? 0,5. No, ma facciamo un sondaggione, dai, lancia un sondaggione. Secondo gli ascoltatori, non lo sapremo mai, secondo gli ascoltatori, Allegri è contento di essere rimasto al Milan o si sta mangiando i gomiti per non essere andato alla Roma? No, ma secondo me è contento, no? 800 24 00 24, Allegri e la sua porta scorrevole che si è chiusa credo a giugno, perché Allegri non esce benissimo da questa stagione. Le porte scorrevoli di questa domenica, questa sera c'è un Napoli-Inter, poi ne parleremo anche con Pierre che è proprio a Napoli dopo le 18, Pierluigi Pardo, che secondo me è esattamente il simbolo della gara porta scorrevole, sliding door. Cominciamo da Mazzarri. È una vigilia particolare, quando sarò lì probabilmente 4 anni non sarà facile proprio che dimenticarli, o comunque la mente non vada un attimino a certe sensazioni, perché sono stati 4 anni belli, intensi, c'ho tanti bei ricordi. Sai cosa ti dico, Carlo? Che io non capisco perché i napoletani questa sera debbano fischiare Mazzarri. So che Giorgio De Luca, che saluto dietro al vetro, autore di questa puntata, dice che Mazzarri ha tradito, se n'è andato, però lui tifa Napoli. Io non riesco a capire. Tu? Guarda, te lo stavo dicendo io, le cose che stavo pensando io, ma perché fischiarlo? Semplicemente è un ciclo che si è concluso, una storia che è finita, ma da tutte e due le parti. Mazzarri ha fatto delle cose straordinarie a Napoli, sarebbe bel pubblico napoletano, è meraviglioso, sarebbe bello un bel applauso, magari sorprendendo lo stesso Mazzarri. Non c'era alcuna ragione di fischiarlo, perché appunto quella storia era finita lì. Quindi non c'è stato nessun tradimento, secondo me. De Laurentiis è stato anche lui contento di cambiare allenatore, non so nemmeno se l'avrebbe confermato. Non c'è proprio nessuna ragione di fischiare Mazzarri. Proviamo a chiedere anche questo, oltre al sondaggio su Allegri, proviamo a chiedere anche questo ai napoletani, o non napoletani, insomma, ma perché fischiare Mazzarri? Ma voi lo fischiereste? Sì, lo fischiereste. 0024 vi rispondono. Oh no, questa sera intanto arrivano le prime risposte al sondaggione su Allegri. Non è contento di essere rimasto a Milano. Di certo con lui la Roma sarebbe in zona retrocessione come il Milan adesso. Max da Udine, 349-238-6666 per i vostri SMS. Altra porta scorrevole, Rafa Benitez, i suoi 3 mesi all'Inter. Profitto di 30 milioni. 2 titoli. E Champions, la squadra è con una giornata ancora per giocarsi, essere qualificata per la Champions in 5 mesi e mezzo credo che non è un bilancio negativo, credo che è molto positivo. Meglio lui o Moratti? Flash. In che senso? No, meglio lui che rivendica questo suo lavoro, o Moratti che l'ha fatto capire Moratti, più no? volte che Benitez era atterrato sul pianeta Inter ma non c'entrava nulla. No, ma non c'entrava nulla per Moratti, perché Moratti non l'ha mai voluto. Tu sai benissimo come è sempre stato Moratti con gli allenatori che non ha scelto di persona. Moratti non ha mai voluto Benitez e dunque è sempre stato questo rapporto molto freddo, no? Questo rapporto che non è mai decollato. Poi è inutile anche che Benitez elenchi la faccia alla lista della spesa delle cose positive o di quelle negative. Non si può valutare il lavoro di un allenatore dopo 6 mesi, quindi è ingiudicabile secondo me il lavoro di Benitez all'Inter, al di là dei 30 milioni, al di là di quei titoli parziali, di quei titoli che sai che lasciano il tempo che trovano, quindi io quasi sarei portato a non considerare Benitez come un ex allenatore dell'Inter. Quei 5 mesi sono troppo pochi. Troppo pochi. E poi l'ultima voce, secondo me anche l'ultima domanda, poi ti dico cosa ne penso, però è il tema di oggi, fallimento o no? Effettivamente l'avevo messa come obiettivo principale nostro quest'anno la vittoria della Champions League. Effettivamente, se ben ricordo, dovevamo vincere la Champions League, poi in ordine lo scudetto, poi la Coppa Italia, avendo già vinto la Supercoppa. Effettivamente avevo parlato di triplete, sì. 800 24 00 24, traffico. Tutti convocati. 800 24 00 24, il sondaggio su Allegri prende piede, eh. Lorenzo, come fa Allegri a rimpiangere la Roma? Allenare difensori emozionanti come Zapata, Costan, Bonera e Mexes non ha prezzo, poi si vede lontano un miglio che Allegri non è contento, poi ancora il Milan ha imposto ad Allegri una campagna acquisti orrenda, adesso Allegri ne paga le conseguenze. Però questo è solo uno dei sondaggi che lanciamo oggi, 800 24 00 24, per chiamare in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati su Twitter. Per chiudere, Carlo, secondo me Conte ci sta prendendo in giro, è meglio di Mourinho, sta diventando meglio di Mourinho, ma chi ha detto che doveva vincere la Champions? Chi ha detto che il fallimento è quello? Ha fatto 6 punti in 6 partite, certo, si può parlare di fallimento. Ma Giovanni, è un fallimento perché lo è, ma lo sa Conte, lo sanno tutti gli juventini, ma credo che nessuno voglia nascondersi, no? Perché i risultati sportivi vanno anche letti. Cioè, tra vincere la Champions League e non passare il primo turno facendo 6 punti in un girone che tutto sommato, non tutto sommato, che era certamente piuttosto semplice, questo, se c'è un fallimento è questo. Il risultato sportivo del Napoli parla di una grande stagione di Champions comunque, perché ha fatto, magari ha buttato via una chance, però 12 punti contro grandi avversarie, e quindi sportivamente è una grande Champions. Quella della Juventus è una pessima Champions League. Poi ripeto, tra il vincere la Coppa e l'uscire a primo turno ci sono varie vie intermedie, no? Quindi, ma questo lo sa benissimo Conte, è inutile, hai ragione, sta prendendo in giro un po' tutti. Chi vuol crederci ci creda, io non credo ci siano degli juventini disposti a credere a queste parole di Conte. Comunque io adoro gli allenatori alla Mourinho, e da quest'anno credo più ancora che l'anno scorso, più ancora che il primo anno, lo possiamo dire, gli allenatori alla Conte. Grazie Carlo. A te, a tutti, ciao. Grazie a Carlo Genta, 800 24 00 24. Intanto sto rivedendo le immagini di un meraviglioso gol di Borja Valero, il secondo dei tre che la Fiorentina ha segnato il Bologna. Fiorentina che è quarta in classifica. Saluto Enzo Bucchioni, direttore del QS. Ciao Enzo. Ciao a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati. Oggi stiamo parlando delle porte scorrevoli. Secondo me anche questa sfida con il Bologna per la Fiorentina era una porta scorrevole, perché per mille motivi non vincerla probabilmente avrebbe segnato un ridimensionamento delle ambizioni della squadra viola in questo campionato. Sì, questo è vero, dopo la sconfitta con la Roma, la Fiorentina però ha vinto in Europa League giovedì, si è ripresa immediatamente, e oggi ha dimostrato di essere quella squadra che fa un gioco spettacolare, per certi versi meraviglioso, e si è visto. Il Bologna è poca cosa, questo va sottolineato, però la Fiorentina ha dimostrato di ritrovarsi subito, di crederci e di avere dei giocatori straordinari. Hai parlato ora di Borja Valero, Borja Valero su tutti, Pepito Rossi, questa è una squadra che quando dice di giocare fa quello che ha fatto oggi. Ha qualche carenza nella fase difensiva, però il Bologna oggi non ha mai impensierito. Su questo dovrà lavorare Montella per poter competere fino in fondo per una delle prime 5 posizioni. La Fiorentina io credo che ci sarà fino alla fine. Montella, che è il microfono di Sky Sport, proviamo a prenderne quindi di questo sono soddisfatto, e mi auguro che la squadra lo sappia mettere in campo ancora in futuro. Squadra che non ha subito gol, credo soltanto per la terza volta in questo campionato. Due giocatori che tu hai un po' recuperato, Ilicic, a cui hai dato tempo e fiducia, oggi ha giocato, ma anche Vargas, che sta facendo bene sulla fascia sinistra. Manca qualcuno all'appello, a parte Gomez, che lo aspetti immagino per gennaio, o va tutto bene? Anche Neto lo possiamo considerare uno, cioè, dei giocatori, va sul mercato o no? Questa è la domanda che stanno facendo a Montella. Recuperare, nel senso che le nostre tutte scelte ponderate, qualcuno azzardata, ma qualcuno abbiamo bisogno di aspettare alcuni giocatori anche giovani, la nostra dimensione, e di questo siamo contenti. A me personalmente, umanamente, spiace per qualche calciatore giovane che avrebbe bisogno un po' più di spazio, in questo momento ne ha poco, e quindi ripeto, la nostra dimensione è quella di recuperare tutti, di far crescere soprattutto quelli giovani laddove ci sia tempo e bisogno e possibilità. Sì, mi sembra Enzo Bucchioni, credo che la dimensione della Fiorentina sia ben diversa in realtà, non è una squadra che deve recuperare i giovani e farli giocare, credo che la dimensione sia di una squadra che deve star lì, e se qualcuno tra Roma e Napoli perde il passo, magari provare a prendere quel terzo posto che vuol dire Champions. Sì, questo è indubbiamente l'obiettivo stagionale, non si può più nascondere la Fiorentina, l'ha detto Della Valle inizio stagione, dopo aver fatto anni di preparazione, ora è il momento di cominciare a provare a vincere qualcosa. Fiorentina è in corsa sui tre fronti, in Europa League, in Coppa Italia, quando entrerà in ballo il campionato, vuole sicuramente centrare quella qualificazione europea che l'anno scorso è sfuggita per pochissimo, ricorderete nel testa a testa finale con il Milan. Le qualità ci sono tutte, non è il momento di far giocare i giovani ma di centellinarli. I giovani sono le riserve, sono il futuro. Ora la Fiorentina ha bisogno casomai di fare qualcosa sul mercato per diventare una squadra ancora più competitiva. Io credo che punteranno a un buon centrocampista per il reparto da rafforzare quello lì. Però con il quanti punti in più avrebbe con Gomez la Fiorentina? Ma io credo molti, perché non solo è mancato Gomez, e basta la parola e basta sul curriculum della sua classifica di marcatori degli ultimi anni, ma soprattutto secondo me poteva fare di più Rossi, perché se Rossi avesse avuto un giocatore di quel tipo lì vicino, forte fisicamente, che gli è in grado di aprire i varchi, ha già fatto 13 gol con oggi. Secondo me questa coppia sarebbe diventata straordinaria. Purtroppo i 6 ma, non possiamo parlare con i 6 ma, discutere su 6 ma, speriamo per la Fiorentina che Gomez torni il giocatore che conoscevamo prima possibile, poi allora lì secondo me potrà dire la sua in tutte le posizioni, scudetto a parte. Per il secondo e il terzo posto credo che ci sarà anche la Fiorentina nella volata in primavera. Sì, poi sai che bello se Fiorentina, Juventus, Napoli, anche la Lazio prendessero sul serio l'Europa League da qui a maggio. Sì. 800 24 00 24, io non ci credo, te lo dico, a partire dalla Juventus, anche se c'è la finale a Torino. Simone da Verona, buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Prego. Volevo intervenire sull'eliminazione della Juventus dalla Coppa Campioni. Sì. A mio avviso trovo che il campionato italiano esalti un po' troppo la Juventus come squadra più forte in assoluto, perché comunque in Europa non è il primo anno, ma è da diversi anni che la Juventus esce malamente. Anche in Europa League ricordiamo una volta con Zaccaroni che è uscita con 5-6 pareggi e nel suo girone. Sì, stiamo parlando di un'altra era, Simone, se mi cita la Juventus, sì, di Zaccaroni, stiamo parlando di un'altra era. Sì, però ritengo assurdo che la Juventus possa minimamente pensare di vincere la Coppa Campioni con questa formazione. Cioè, ha fatto una vittoria solamente su 6 partite e sperava addirittura di vincere. La colpa, ho letto i giornali che danno la colpa agli spalatori del Galatasaray. Sì, però Simone, io credo, e poi la ringrazio, fanno bene anche a dare colpa agli spalatori. Poi la Juventus resta, Enzo, la migliore squadra in Italia. Il confronto con l'Europa è un'altra cosa, poi però in Italia lo dicono i numeri. Sì, questo assolutamente, vincere 2 scudetti consecutivi non è mai facile. Il gioco della Juventus in Italia è ancora unico per il furore agonistico che ci mette, per la qualità delle giocate, per il gioco di squadra d'assieme. Ecco, Conte è stato bravo in questo, perché dal punto di vista qualitativo, perché in Europa la Juventus fallisce? Perché dal punto di vista qualitativo è ancora indietro alle squadre più forti, anche se fosse andata avanti alleviando un pochino la delusione, poi inevitabilmente sarebbe imbattuta in un Bayern come l'anno scorso, in una squadra di quel tipo lì che sono avanti. Qui e Conte ha ragione, sentivo prima la discussione su Conte. Se dice il vero o dice il falso, l'unica cosa che ha detto che ha ragione è che le nostre squadre, Juventus compresa, sono indietro anni luce e ci metteranno molti anni ancora a ritornare a livelli di Bayern, di Barcellona, di Real Madrid. Il nostro calcio italiano sta passando questo momento, però oggettivamente la Juventus poteva fare e doveva fare di meglio in Coppa anche con questa squadra. Dico una cosa per far capire, la Juventus ha bisogno di Higuain. Con Higuain facevi quel salto che probabilmente ti avrebbe consentito anche in partite giocate così e così di vincerle, penso con i danesi, penso con il Galatasaray all'andata, e purtroppo anche lì ritorniamo ai problemi economici. La Juventus non è stata in grado di comprare Higuain, l'ha preso il Napoli perché aveva i soldi incassati per Cavani. Dobbiamo fare i conti con questo, con le casse che sono ormai esauste del nostro calcio, che non ha più una lira. Ancora qualche amico, 349-238-6666, le eventuali contestazioni a Mazzarri sarebbero l'ennesima dimostrazione di inciviltà dei tifosi napoletani, ha fatto vincere loro l'unico trofeo dei tempi di Ferlaino. Poi Luca da Rimini, quante ironie gratuite su Allegri, quanto vi brucia che siamo gli unici agli ottavi e a febbraio-marzo in Coppa può succedere di tutto. Secondo me col sorteggio che arriva domani potrà succedere poco, anche se io mi auguro, Enzo, spero, penso che il Milan di febbraio-marzo sarà diverso da quello che abbiamo visto anche l'altra sera con l'Ajax, però non lo so, credo che il Milan parta ampiamente sfavorito contro chiunque degli altri 7 che trova. Ma sì, assolutamente, guarda, per farti capire come la penso io, vorrei che il Milan vincesse la Coppa dei Campioni, come la Juventus, il Napoli, tutte le squadre italiane, quindi non è che nessuno ce l'ha con il Milan, però fai un'analisi oggettiva del valore di questa squadra e di quelle che saranno nell'urna del sorteggio, e io sinceramente mi metto le mani nei capelli, oppure dico dove va questo Milan, ma anche se migliorerà sicuramente con Honda, con Rami e gli acquisti di gennaio, sicuramente crescerà, perché non può essere ridotto così male il Milan, però le altre sono nettamente più forti. E poi nella partita doppia, fosse una partita secca, può succedere veramente di tutto nel calcio, lo sappiamo, però sulla doppia partita mi pare che non ci siano purtroppo chance. Milan è sempre in emergenza infortuni da settembre, pure ancora dentro con un sorteggio favorevole il mercato e i recuperi ne parliamo. Aldo Darò, il problema secondo me sta nel sorteggio favorevole, che non so quale possa essere, forse l'Atletico Madrid, ma forse. No, l'Atletico Madrid è nettamente più forte come organico, come organizzazione. Forse il gioco. Manchester United, forse, oggi ha vinto tra l'altro, 3-0. Non lo so, mettiamoci lì a sfogliare la margherita, ma non lo so, poi ripeto, il calcio è strano, io mi auguro che il Milan vada avanti, però se parli di tecnica, di tattica... Sì, non c'è partita con nessuno. Non c'è partita con nessuno. Noi lo diciamo, no. poi ovviamente a febbraio il Milan andrà avanti, batterà il Barcellona, il Bayern, e ce lo ricorderanno. Però al momento questo è 349-238-6666 da Juventino Conte e da Sassuolo, non da Europa, con malincuore. Francesco, i tifosi sono, Enzo, meravigliosi, e poi ti saluto. No, questi sono scatenati. No, io dico una cosa sola, Conte ha preso questa squadra con pochi ritocchi, che era finita fuori da tutte le competizioni, mi pare settima in campionato, e gli ha fatto vincere lo scudetto. Quindi se questo è quello che merita Conte, ditelo voi, cioè è un tifoso isolato, questo è il miracolo Juventus di questi anni. La forza della Juventus di questi anni, lo dicevo prima, è perché gioca in un modo straordinario, perché l'ha voluta Conte, perché la pressione di questo allenatore, la voglia di vincere, l'ha trasmessa a questa squadra. Quello, l'unico interrogativo che ho io, è che tirando la corda così tanto dal punto di vista psicologico come ha fatto Conte, magari a un certo punto si possa un po' spezzare, come era successo all'inizio stagione. Però il merito è tutto di Conte e di una società che l'ha secondato fino a un certo punto, però, perché ripeto, bastava qualche ritocco in più per fare diventare la Juventus grande, un pochino più grande che in Europa. Grazie Enzo. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti, a presto, ciao. Grazie Enzo Bucchioni, direttore del QS 800 24 00 24, per dire la vostra anche su questa vigilia. Manca un'ora esatta all'inizio di Juventus Sassuolo, ci fermiamo, pubblicità. Tutti convocati. 800 24 00 24, i nostri sondaggi sono aperti, eh? Secondo voi Allegri dice la verità o no quando dice di non avere rimpianti per aver detto no quest'estate alla Roma? Poi Mazzarri e il Napoli, cosa vi aspettate questa sera da Napoli-Inter? E poi se sia un fallimento o no davvero questa settimana della Juventus, e che Juventus pensiate di vedere contro il Sassuolo, partita 18:30. Saluto Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Buonasera direttore. Che Juve ci aspettiamo? Sulla carta direi che bisogna aspettarsi una Juve agguerrita, insomma, il Sassuolo, al di là del fatto che stia comunque in un periodo positivo, perché non sta giocando male, sta ottenendo dei risultati confortanti, è sulla carta infinitamente più debole della Juventus, insomma sulla carta sembra tutto scontato, però sulla carta a un'ora dall'inizio della partita, poi vedremo. È chiaro che dopo quello che è successo a Istanbul, dopo quello che è stato detto da Conte, insomma il minimo sindacale è pensare a una Juventus che riprenda a correre, che allunghi la striscia positiva in campionato. Poi ripeto, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il Sassuolo. Sì, una Juventus col sangue agli occhi. A proposito di Conte, ho letto la prima pagina del tuo giornale oggi, così si alza l'asticella, poi alcuni nomi, suggerimenti per il mercato di giugno, tra cui Suarez, Nani, Mandžukić. Tutti i giocatori che vanno in scadenza. Che vanno in scadenza. Per non aggravare il bilancio della società, noi ci mettiamo una mano sulla coscienza. Quindi niente top player, o meglio top player, ma che possono arrivare con operazioni simili a quelle di Llorente. La domanda che ti faccio però è questa: secondo me Conte sta diventando bravo quasi come Mourinho. Nessuno parlava di fallimento per non aver vinto la Champions, lui ha spostato l'attenzione con le parole che abbiamo anche risentito prima, che ha pronunciato ieri. Però di fallimento si può parlare se tu fai 6 punti in 6 partite in quel girone. Guarda, lui ha spostato l'attenzione e alzato l'asticella, come abbiamo scritto noi oggi. Beh, sicuramente devo dirti che una squadra che riesce a vincere una sola partita nel suo girone, una squadra che va a pareggiare a Copenaghen contro una formazione oggettivamente che equivale a una buona formazione della nostra Serie B, una squadra che non riesce a battere Galatasaray in casa con un pareggio rocambolesco, io penso che non abbia diritto di andare avanti in Europa, almeno a questi livelli. Anche l'anno scorso c'era stato un recupero dopo un inizio sbagliato del girone di Champions con tre pareggi di fila. L'anno scorso questo recupero c'era stato, poi con un colpo di fortuna la Juventus aveva preso il Celtic ed era riuscita ad andare avanti. Oggettivamente io credo, sempre ragionando sulla carta come abbiamo fatto prima, che se anche la Juventus avesse superato questo turno, poi uscendo come seconda dal suo girone sarebbe andando incontro a un sorteggio di domani a Nyon, insomma sarebbe andato incontro a degli avversari che oggettivamente stanno un passo avanti alla Juventus. Sì, Conte allunga, rinnova, oggi lo scrive la Gazzetta dello Sport, malgrado questa delusione, esiste ancora un progetto a lungo termine? Ovviamente stiamo anche estremizzando. Ma guarda, io ti sono sincero, io non penso che possa essere l'eliminazione dalla Champions League insomma un motivo per spostare la deriva di un rapporto che dura felicemente da tre anni. Io penso che adesso sia presto per parlare di un rinnovo di Conte o di un addio di Conte. Sicuramente la situazione andrà analizzata, io penso andrà analizzata nell'anno prossimo, all'inizio dell'anno prossimo. Bisogna vedere cosa chiederà Conte. Non dimentichiamoci che Conte l'anno scorso a maggio, proprio fresco vincitore del suo secondo scudetto da allenatore, aveva anche lì alzato di molto l'asticella. Io non so che cosa pretenderà quest'anno, io credo che lui come tutti si siano resi conto che se l'obiettivo deve essere andare avanti in Europa, nell'Europa insomma nobile, quella che conta, questa squadra ha bisogno di un paio di interventi di altissimo profilo e quindi io oggettivamente ti dico, non penso che in questo momento si possa fare un discorso sulla riconferma, il prolungamento, l'addio. Penso che bisogna vivere il momento di Conte, il momento della Juventus, poi vedremo che cosa succederà. Ad esempio io ti dico, io non sono mica sicuro che Pogba continui a giocare nella Juventus il prossimo anno. Anche perché questo rinnovo che è stato più volte annunciato come imminente, come vicino, soltanto questione di mettere insieme tutti i tasselli, mi sembra che tardi. Ma guarda, ma anche con il rinnovo, tu lo sai meglio di sì, me, quando c'è di mezzo Mino Raiola, io fossi un calciatore mi farei rappresentare da Mino Raiola perché sono sicuro che mi fa guadagnare un botto di soldi. Quando c'è di mezzo Mino non è un contratto firmato o non firmato che possa incidere. Tu sai benissimo che se un giocatore si mette in testa ad andare via può avere un contratto di 5 anni e se ne va. Per cui io credo che al di là di quello che può essere una firma o non una firma, la situazione della Juventus sia piuttosto complessa e vada analizzata non adesso ma più avanti nel tempo. Può anche darsi che ci sia il sacrificio di qualche mamma santissima, come avvenne con Zidane, per un potenziamento della squadra attraverso i sacrifici. Del resto non in fondo, direttore, se Conte dall'inizio della stagione dice che il Napoli è più forte per aver venduto Cavani, credo possa anche accettare la cessione di un big se quei soldi vengono reinvestiti sul mercato. Devo esserti sincero, se la cessione del big fosse quella, come credo, di Pogba, farebbe un po' male al cuore, perché non è un giocatore ormai consumato, è un giovane straordinario di grandi prospettive che tu cedi a 20 anni, e quindi sai, non è Zidane, insomma è uno che ti può dare, che può crescere ancora e ti può segnare un'epoca, però è chiaro che poi alla fine, sai, noi siamo qua che parliamo serenamente seduti e poi c'è chi deve gestire una società con un bilancio da rispettare. Per tutte queste ragioni io penso che bisogna avere un po' di pazienza e sulla Juventus non ragionare di pancia. Certo, intanto di pancia sicuramente si comincia a ragionare anche preparando la sfida con la Roma che arriverà dopo la sosta. Ti leggo un messaggio di un amico su Twitter, chiocciola tutti convocati, ma perché la Juve gioca stasera? Perché il calcio italiano deve sempre prostarsi? Polemica che è rimbalzata anche da Roma in settimana. Io credo che chi ha postato chi ha twitterato questo, questo messaggio abbia ragione. Non a caso, insomma, tutte le squadre che hanno, straniere che hanno giocato il mercoledì, ieri sono scese. Si poteva fare a meno, regolarmente in campo. Poi noi non ci stupiamo se arriviamo sempre dopo la dirigenza, insomma. Qualche problemino noi, ma io non parlo di Juve, ti posso parlare di Juve, di Milan, di Inter, di Napoli, di Roma, io allargo il discorso. Noi italiani dobbiamo essere sempre un po' diversi e sempre un po' speciali, insomma, se tutti, in tutti i campionati stranieri le squadre che hanno giocato mercoledì hanno poi rigiocato sabato, non vedo perché non avesse potuto farlo la Juventus, o non potesse farlo la Juventus o il Milan o l'Inter, ripeto, è un discorso molto allargato. E poi De Rossi che ha parlato di quegli aiutini arbitrali alla Juventus, la Roma non è stata danneggiata, ma spero che la cosa venga riequilibrata. Mi è sembrato un messaggio chiaro, chiarissimo. Ma guarda, io mi son stupito che non fosse venuto ancora fuori un discorso di questo genere. Va preso, insomma, così. De Rossi è un ragazzo onesto, pulito e intelligente. Io penso che anche queste dichiarazioni facciano parte di un contesto, no? Insomma, la Roma lotta per lo scudetto e alle prese con una partita delicatissima domani a Milano contro il Milan. Ci sta che De Rossi, insomma, insinui il tarlo del dubbio. Poi, siccome la gente di calcio sa come funzionano certe cose, lo sappiamo anche noi, io penso che certe dichiarazioni vadano prese col buon senso e non strumentalizzate, perché sennò si innescano delle polemiche dalle quali noi non usciamo fuori e facciamo da sempre solo la figura dei soliti italiani. Per chiudere questa sera di nuovo i ragazzini in curva, secondo te cosa succede? Maestri e maestre hanno il registro di classe in mano, alla prima parolaccia scatta la nota e poi non riceveranno regali a Natale ma solo carbone. Quindi devono stare attenti. Il Tosel però aspetta, è dotato di un amplificatore e alla prima pernacchia partono 1.000 euro di multa. Sì, ma fuori dallo scherzo, secondo te questa sera sono lì ad ascoltarli o no? Perché poi è quella la dirimente. Ma guarda, ti posso dire, se a Tosel l'hanno scritto, lui poi alla fine... Bravo, infatti fa. Io ti dico, molti se la sono presa col giudice Tosel senza fermarsi ad analizzare il fatto che il giudice Tosel ha deliberato su o un referto arbitrale o un referto dell'ispettore della Federcalcio. Quindi io penso che l'arbitro questa sera e l'ispettore della Federcalcio, se per caso dovesse partire un altro insultino, dovrebbero essere così di buon senso di evitare, perché altrimenti se usiamo questo metro non c'è più uno stadio aperto e le società vivono per pagare le multe, perché questo è il nostro sentire civile, purtroppo. Vittorio Regia, grazie. Grazie a voi. Grazie Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Qualche messaggio al 349-238-6666. Allegri dice la verità, poi parlate delle assenze pesanti per la Fiorentina e la Lazio, ignorate quelle del Milan che sono state ben più numerose e pesanti. Stefano D'Adesio, sì, però è diversa anche la situazione di classifica. E poi Sebastiano, l'uscita dalla Champions è un bel fallimento, credo che questa sarà l'ultima stagione di Conte alla Juventus perché spreme psicologicamente i giocatori, può darsi. Però sposo più il discorso di Vittorio Reggia. E poi ancora un tifoso del Milan, Gino, stavolta non avremo contro il Barcellona, sempre al top contro di noi, il Milan di febbraio scorso può qualificarsi ai quarti. C'è Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport, ha cambiato faccia alla Sampdoria, sentiamolo. Per il risultato, per l'atteggiamento e per lo spirito che hanno messo in campo, ma meno contento per il gioco espresso, perché primo tempo abbiamo fatto troppi lanci lunghi e questo devo dire la verità anche per il merito di Chievo. Secondo tempo, quando abbiamo avuto qualche occasione di nelle ripartenze, da tre quarti in campo in su siamo stati poco cattivi, però devo dire la verità che quella occasione di Terò all'inizio, poi dopo abbiamo sofferto poco e abbiamo comandato sempre noi il gioco, anche se sapevamo che è una partita difficile, dura, che loro stanno in un buon momento. Ma sono contento perché ragazzi stanno continuando bene, hanno imboccato la strada giusta e bisogna andare avanti così. Ecco, proprio su questo. Sampdoria che con Mihajlovic ha vinto tre partite e ne ha pareggiate due. È a quota 17 insieme all'Udinese di un Guidalin delusissimo. Non siamo riusciti a passarlo in diretta, ma aveva davvero un volto deluso dopo la sconfitta in casa contro il Torino. 800 24 00 24. Intanto squadre in campo a Torino per il riscaldamento, mancano tre quarti d'ora, Juventus Sassuolo, ci fermiamo, traffico. Mi ha fatto arrabbiare l'arbitro perché ieri ha sospeso la partita perché era dangerous per i calciatori, oggi tutto un tratto non era più dangerous. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24. Saluto intanto Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao Giovanni, buon pomeriggio. Sì, in piena vigilia di Napoli-Inter. Beh, è una partita speciale, spero sia una bella partita soprattutto. Sì, tu lo fischi Mazzarri o no? No, non si fischiano gli allenatori che hanno dato tanto. Chiaramente, sai, le modalità dell'addio non sono state le migliori, ma gli addii sono sempre un po' dolorosi, soprattutto quando ci si è amato molto. Sì, io però continuo a non capire perché il Napoli debba avercela, i napoletani debbano avercela con Mazzarri, anzi se ce lo vogliono spiegare 800 24 00 24. Io sinceramente continuo a non capirlo e lo ripeto, perché non so più di così che cosa poteva fare. Lo sentiamo che cosa ha detto Marco Mazzarri ieri a proposito di questo suo ritorno a Napoli. Mazzarri. Adesso lo andiamo a ripescare. Ha detto che per lui non è una partita normale, non è una vigilia normale. Altro, non potrebbe essere così. Comunque va detto che Mazzarri è stato allenatore che dopo tanti anni ha riportato un titolo a Napoli, la Coppa Italia. Non sarà un titolo di quelli da prima pagina o da nove colonne, però è stato, ecco, un momento importante all'interno di un percorso di crescita. Ecco, forse i napoletani, ma immagino, perché anche per me Giovanni è difficile capirlo, immagino che insomma si siano sentiti un po' traditi forse da questo addio, e magari si aspettavano magari la scelta di Mazzarri di poter continuare anche quest'anno in questo che doveva essere l'anno del salto di qualità definitivo per la società di De Laurentiis. Sì, intanto Mazzarri che è stato confermato oggi da Toir, perché questa è stata una settimana particolare per l'Inter. Toir ha detto Mazzarri è un grande professionista, è un ottimo allenatore, ha la piena fiducia mia e di tutto il management, gode del massimo rispetto, è l'uomo giusto al posto giusto, non abbiamo mai pensato di entrare in contatto con altri allenatori e non ne vediamo la necessità. Partiamo da qui per ragionare anche che cosa è successo in questi ultimi giorni, questo vero presunto mal di pancia tra Moratti, Toir. Ho l'impressione che sia finita la luna di miele di Toir con il mondo Inter. Guarda, io ho scritto in Twitter l'altro giorno su piccolo retroscena che mi è stato raccontato, ma credo sia assolutamente fondato, è quello relativo alla cena di Natale con gli sponsor, e mi è stato raccontato di un clima abbastanza gelido, con da una parte la vecchia gestione, quindi la vecchia società con Fassone e qualche altro dirigente, dall'altro i nuovi dirigenti, e in mezzo questi sponsor che non capivano esattamente da che parte girarsi, insomma. E in questo momento c'è un problema evidentemente di scelte gestionali, di management, di un passato che non è passato, di un futuro che ancora deve cominciare, e mi auguro insomma per il bene del calcio italiano che non si rallenti troppo il processo di crescita della nuova Inter. Sì, detto che chi si aspetta a gennaio investimenti da Toir secondo me sogna. Beh, davvero Mazzarri da questo punto di vista ha ragione. Sai, purtroppo Mazzarri è stato un po' sfortunato, perché anche nella gestione del rapporto con De Laurentiis spesso come dire, quelli che erano i suoi giocatori preferiti, i primi della lista ogni anno, poi non venivano acquistati per una ragione o per l'altra. Insomma, forse lui teme di ritrovarsi di nuovo a dover fare i conti con seconde scelte tra virgolette, rispetto poi invece a quelle che sono le aspettative di una piazza che vuole tornare a primeggiare in Italia, o comunque tornare in pianta stabile in Europa. Sicuramente, lo abbiamo detto Giovanni più volte, Nainggolan potrebbe essere per esempio un acquisto importante. Sì, però se tu vai a Londra a vendere purché ti paghino subito Guarino, onestamente non credo che Nainggolan faccia fare un salto di qualità all'Inter. Chiaramente. Credo che il conto sia questo. 800 24 00 24. Andiamo a Napoli. Antonio, buonasera. Salve, buonasera. Prego. No, sentivo che volevate sapere perché i napoletani ce l'hanno con Mazzarri. Ma lei lo fischia stasera, va allo stadio? No, io non vado allo stadio da più di 20 anni. Ma lo fischierebbe? Non lo fischierei come tecnico, ma i napoletani non ce l'hanno con Mazzarri tecnico, ma con Mazzarri che già 2 anni fa voleva andare alla Juve, ci fu quel tira e molla fino alla fine col presidente che fu costretto a restare. Cioè Mazzarri lo vediamo come uno che è stato costretto a stare a Napoli, e questo poi prima di andare all'Inter lui disse no, la roba è un anno sabbatico, tant'è che a Napoli adesso lo chiamano il sabbatico. Il sabbatico, sì, sì. Mi chiedo perché, non lo so, io continuo a non capire che un allenatore si faccia tentare dalla Juventus. Io credo, Antonio, che ci sta, grazie comunque Marco. Il sabbatico, non la sapevo, tu la sapevi? No, mi sfugge evidentemente, sai, vivendo da troppo tempo a Milano, le ultime invenzioni dei tifosi napoletani sono sempre strabilianti da questo punto di vista, mi sfuggono. È chiaro che, sai, c'è la sensazione e il desiderio della piazza napoletana di sentirsi diciamo al primo posto in Italia, no? Almeno per quelli che sono poi i giocatori o gli allenatori che sono a Napoli, e quindi la semplice tentazione, che professionalmente si può capire, di andare altrove in Italia non viene accettata, è stata sentita sì come un tradimento. Massimo, ancora da Napoli. Sì, salve, buonasera. Fischi o allora, applausi per Mazzarri? No, Mazzarri a Napoli per me personalmente ha fatto un ottimo lavoro, poi ha voluto cambiare perché giustamente uno nella sua carriera cerca di comunque fare altre esperienze. A Napoli ha fatto un ottimo lavoro, fischiarlo non credo, qualche applauso lo merita perché comunque con lui noi abbiamo fatto 4 anni straordinari. Quando lui ha preso il Napoli in mano, il Napoli non è che stava proprio tanto bene, lui comunque ha dato un gioco anche criticabile da parte di qualcuno, però per me ha fatto un ottimo lavoro a Napoli. Quindi stasera lui viene qua, si becca i suoi 2 gol, si prende gli applausi e torna a Milano. Tranquillamente proprio. Grazie Massimo. Vincenzo dalla provincia di Frosinone. Pronto? Vincenzo, buonasera. Sì, buonasera. Volevo dire su Mazzarri, niente, perché noi napoletani siamo passionali, quindi ci teniamo molto alla persona, all'uomo, e sicuramente come è andato via non è andato via bene, ha fatto un po' il furbetto, perché non penso che andare a allenare all'Inter si fa in 2 o 3 giorni, quindi già lo sapeva, per giunta si era pure già qualificata la squadra e poteva tranquillamente dirlo prima. Sì, però Vincenzo, non fatemi fare l'avvocato di Mazzarri, lui ha lasciato andare in scadenza il contratto, più di così che cosa doveva fare per far capire che la sua avventura al Napoli era finita? Poi dopo quello che fa dopo la fine del suo contratto, io non credo nemmeno Marco che De Laurentiis l'abbia scoperto a campionato finito che Mazzarri non rinnovava, perché guarda, non prendiamoci in giro. No, personalmente quando a gennaio Ugo Campagnaro era già tutto chiaro per me, non avevo, aspetta Marco, ti faccio sentire Fernando Llorente. La partita che abbiamo giocato era molto importante per noi passare, non ha potuto essere, però non serve di niente lamentarsi adesso, quindi dobbiamo pensarci solo nella partita di oggi, che è molto importante, contro una squadra tosta, difficile, che ha parecchiato in trasferta contro Napoli, Roma, quindi va a essere difficile. Che Juve dobbiamo aspettarci all'inizio? Sentiamo la Juve secondo Llorente. Che squadra dobbiamo aspettarci? Cattiva, agonisticamente, grintosa, arrabbiata? Sì, una squadra cattiva, no? Dall'inizio, aggressiva. Sapendo fare le cose che facciamo noi, facendola con la testa, credo che ci siamo pronti e con molta voglia, no? Marco, abbiamo un minuto. Tanti hanno scritto che non succede niente alla Juve con la retrocessione in Europa League. Io non sono del tutto convinto. Adesso, senza rifare tutti i numeri, tu credi che in qualche modo però la società abbia voglia di rilanciare su un progetto ancora più importante? Abbiamo sentito prima il direttore di Tutto Sport, magari un top player in estate. Guarda, credo che cambi la mancata qualificazione, nel senso che tutta la campagna acquisti, anche quella invernale, sarà proiettata appunto sull'estate, mentre magari nel caso contrario si sarebbe fatto qualche tentativo in più anche per gennaio. È chiaro che è difficile rinforzare la Juve tenendo conto dei parametri di bilancio, no, che vanno rispettati, per cui secondo me Marotta continuerà, come ha fatto benissimo in questo periodo, a tentare di individuare dei parametri zero, insomma delle occasioni come finora ha fatto, e poi io credo che la Juve, resistendo all'assalto per Pogba prevedibile quest'estate, insomma farebbe davvero farebbe già il colpo. Grazie Marco Belinazzo. Grazie a te Giovanni. Ciao Marco, grazie Marco. Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Isla, Vidal, Pogba, Samoa, Peluso, Tevez, Llorente. Questa è la formazione ufficiale della Juventus, mezz'ora Juve Sassuolo. Noi ci fermiamo ma torniamo. Tutti convocati. Per due motivi: primo, perché comunque Pogba ha un contratto direi abbastanza lungo, e soprattutto poi la seconda considerazione è che Pogba calcisticamente si è consacrato qui in un habitat a lui congeniale, ancora secondo me può e deve crescere, per cui non ci sono sintomi da parte sua di voler cambiare casacca, e quindi direi il problema non si pone. Ilaria. Questo è Marotta in diretta in questo momento su Sky Sport. 22 minuti a Juventus Sassuolo. Stava parlando di Pogba, però abbiamo sentito il direttore di Tutto Sport. Attenzione, perché Pogba è più lontano dalla Juventus di quanto si possa immaginare, anche se ha un contratto, se c'è una trattativa per rinnovarlo, per adeguarlo, per allungarlo. Sono comunque settimane particolari per la Juventus. Sentiamo ancora Marotta. Comunque può rispondere a quelle che sono anche le esigenze dell'allenatore. Questa estate è stata caratterizzata dall'innesto di tre giocatori, due di grande qualità, quale Tevez e Llorente, che hanno incrementato appunto il reparto offensivo, l'altra di un giovane come Ekpon, che comunque avrà tempo e modo per mettersi in luce, forte anche di quello che è il suo dato anagrafico, ecco, quindi ha tempo per migliorarsi. Quindi a gennaio noi non dobbiamo riparare. Siamo sempre disponibili a valutare questa finestra di mercato in prospettiva futura, quindi per quanto riguarda poi l'allestimento di una squadra per il 2014-2015, e anche a sfruttare quelle che saranno le opportunità. Io onestamente non credo che a gennaio ci saranno delle opportunità vantaggiose per noi, coniugando quello che è un po' un accrescimento dal punto di vista tecnico e anche una congruità dal punto di vista economico. Io credo che i bravi giocatori rimarranno nelle proprie squadre. Ciao Pier. Benissimo, ti sento male e quindi va un po' meno bene. Com'è Napoli stasera? Ti senti bene, no? Sì, adesso sì. Com'è Napoli stasera? Beh, bellissima. Napoli è bellissima sempre, questa cosa un po' demagogica mi viene da dire. Stasera è particolarmente bella perché è una partita pazzesca per la classifica, perché Napoli-Inter è una grande partita con due grandi squadre, ma anche per gli intrecci, questi incroci veramente da libro cuore o anche da veleni che ci saranno. Quindi veramente... Grande emozione, grande suggestione, partita secondo me anche spettacolare, insomma, con squadre che ultimamente hanno segnato molto ma hanno anche subito molto. Sì, hai letto oggi la Gazzetta dello Sport, chi si ferma è perduto, per il Napoli è un po' l'ultima chiamata, sottoscrivo in pieno, secondo me è molto meno importante per l'Inter, che è già oltre a quello che potrebbe forse fare, però noi abbiamo aperto con la domanda ai tifosi del Napoli, perché ce l'hanno con Mazzarri, e allora te ne faccio sentire un paio. Fabio da Napoli, buonasera. Sì, la salve. Fischi o applausi per Mazzarri questa sera? Fischi, assolutamente fischi. Perché? Allora, io penso che il napoletano ha il grandissimo pregio, ma anche il grandissimo difetto, di cercare sempre il nuovo Masaniello, cioè di idolatrare la squadra del Napoli. Mazzarri, dal canto suo, non ha mai mostrato empatia verso il popolo napoletano, non ci ha mai portato la famiglia, non ha mai assaggiato la mozzarella, non ha mangiato la pizza. Non ha mai assaggiato una mozzarella, Fabio. Pier, non ha mai... Allora io... No, questo è un retroscena, non ha mai assaggiato la mozzarella. A questo punto, se questo è il parametro, io merito la cittadinanza onoraria, perché sono frecciolata di mozzarella di napoletana. No, però quello che dice chiaramente contiene solo un fondo di verità, è un'esagerazione, una provocazione, però ecco, se noi guardiamo anche i due tipi umani, anche se Sa, Benitez è più napoletano di Mazzarri. Cioè, Benitez la mozzarella l'ha assaggiata di sicuro. Ah, Benitez è entrato subito in empatia con la città, ha fatto il turista, ha fatto addirittura a un certo punto l'ambasciatore di questo sito, il giorno che è andato in gita a Pompei, è uno che twitta le foto, che insomma quasi lavora per l'azienda di soggiorno, mi verrebbe da dire. E la famosa foto con i fotografi nella prima di campionato contro il Bologna, insomma, la sensazione che per spirito, carattere e appunto modo di vivere sia un po' più napoletano di Mazzarri. Sì, io però Pier continuo a non capire, insomma, tu prendi una squadra, lavori bene, ottieni risultati, ma come non riesco sinceramente a capire. Domenico da Napoli, Domenico, buonasera. Buonasera. Prego. Allora, il problema secondo me principale è il comportamento che ha avuto Mazzarri prima di andare via. No, da noi è andato via Campagnaro e probabilmente stasera avrà applausi. È andato via Lavezzi, se tornasse qui a San Paolo avrebbe applausi, così come lo stesso Cavani. Il problema di Mazzarri è che è andato via senza essere chiaro e trasparente, non lo è stato. Probabilmente voi giornalisti che fate questo lavoro sapevate già che sarebbe andato all'Inter, invece lui si è comportato, è rimasto sempre sul vago. Sarebbe bastata semplicemente un po' di chiarezza. E poi la cosa principale è che è andato via sul più bello, perché quest'anno probabilmente c'era tutta la voglia, la possibilità di fare il salto di qualità, e lui ha avuto paura, quasi come se avesse la paura di arrivare eternamente secondo, non voler migliorare. Un po' come Toto Cotugno a Sanremo, non so se un po' come Toto Cotugno a Sanremo. Sai cosa, Pier? Io mi sto convincendo che i napoletani ci sono rimasti male perché in fondo a Mazzarri erano legati, perché in fondo forse lo amavano più di quello che amano oggi Benitez, altro che chiacchiere. Perché a me sembrano, non so, tanti interventi di amanti delusi. Ma sì, insomma, io credo che ci sia una realtà oggettiva, però secondo me l'intervento dell'ascoltatore precedente è illuminante. Cioè, comunque Napoli è una città ed è un popolo che chiede certamente un apporto professionale che Mazzarri ha dato in maniera eccezionale. Però secondo me Napoli si innamora, per quel poco che la conosco, di chi si lascia un po' andare. E da questo punto di vista Mazzarri, magari per proteggere la squadra da certi eccessi di passione e di amore della città, secondo me è stato fatto anche in buona fede, assolutamente, senza malizia, un po' per carattere e un po' per questo aspetto, secondo me Mazzarri si è mescolato poco con la città. Ha tenuto la squadra spesso al riparo dalle esaltazioni straordinarie, anche dagli eccessi di entusiasmo, di depressione che ci sono qui. E questo secondo me in qualche modo gli ha impedito di avere un feeling assolutamente completo con i tifosi. Poi c'è stata tutta la dialettica con De Laurentiis, ovviamente, che è stata una dialettica non semplicissima, non sempre semplicissima, però insomma secondo me la chiave psicologica è questa, insomma, e Benitez invece secondo me è il contrario. Sì, Benitez, al di là dei risultati, poi questo, ripeto, poi vediamo alla fine dell'anno. Se il Napoli oggi è una squadra in Champions League ed è una grande del calcio europeo, lo deve ai 4 anni eccezionali che ha fatto Mazzarri. Sì, e io aggiungo un carico: non che il Napoli di Champions League di Mazzarri avesse fatto meno bene di quello di Benitez, e non è un discorso di qualificato o eliminato, perché lo abbiamo detto, 12 punti merita soltanto applausi, però era quello un Napoli che era rimasto comunque a testa alta dentro un girone complicato almeno quanto questo. Pier, ti leggo la formazione della Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Isla, Vidal, Pogba, Samoa, Peluso, Tevez, Llorente. Manca un quarto d'ora, noi ci fermiamo, traffico. Tutti convocati. Mazzarri è una persona che riscuote assolutamente la mia considerazione, la mia fiducia, e quindi se vorrà rimanere rimarrà, se mi spiegherà che il suo compito a Napoli è finito e ce ne faremo una ragione. Che se in tempo tira e non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera, e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. Tutte le tifoserie devono rispettare la scelta poi fatta con coerenza e lealtà alla fine del mandato, perché c'è la persona, non possono sapere cosa vive una persona all'interno della società, con se stesso, tante cose, quindi andrebbe rispettata, io credo questo. Il mio nemico non ha divisa, ma le armi ma non le usa, nella fondina viene del carte lisa quando ci deve un chiedere scusa. Lei può convincere una moglie con i soldi a rimanere, ma se quella moglie ha deciso di scopare con qualcun altro, scopa con qualcun altro. Se non hai morale e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non faccio previsioni, accetto quello che la gente vuol fare, non me lo pongo il problema, ma proprio perché sono una persona, credo, tranquilla, leale, coerente e professionale. Sparagli Piero, sparagli volo. 800 24 00 24, raccontateci se siete a Napoli come accoglierete Mazzarri, oppure che cosa ne pensate di Benitez se siete tifosi dell'Inter. Poi parleremo anche della lunga vigilia di Milan-Roma, perché Piero oggi grandi novità a Milanello, non c'era Barbara Berlusconi, eh? No, non c'era Barbara Berlusconi, c'era Gagliani. Sì, c'era Gagliani. C'era Berlusconi, che sappiamo insomma storicamente è bravo nel dare carica, nel dare grinta alla squadra, insomma sappiamo di questa chiacchierata con Balotelli, l'esigenza di giocare più vicino alla porta, un po' di cose insomma che fanno parte comunque della storia di un personaggio che dal punto di vista del carisma, della motivazione, credo che non lo si possa discutere, insomma. Poi che... Sì, e poi c'è stata una prima volta storica a Milanello, però non vogliamo rovinare la sorpresa ai nostri amici a casa, quindi ne parliamo dopo le 18.30, se sei d'accordo. Prima volta storica a Milanello. Quella cosa lì però non la diciamo adesso, la diciamo dopo. 800 24 00 24, a proposito ancora di Mazzarri, meraviglioso De Laurentiis, perché poi io non so chi si possa scegliere tra i due, cioè chi dei due ha rotto peggio il rapporto fra Mazzarri e De Laurentiis. Io faccio fatica a trovarne uno, cioè i tifosi del Napoli ce l'hanno con Mazzarri, lo abbiamo capito, però non è che De Laurentiis sia andato giù leggero. Ma no, assolutamente, ma infatti io penso che sia, quella canzone si chiama Il mio nemico non ha divisa, cioè alla fine qui è un discorso di questione di divisa. È chiaro che Mazzarri adesso ha scelto un'altra strada, ma non è quello, è un rapporto che si era logorato, che viveva sempre sul filo della follia o comunque insomma del disequilibrio, e che alla fine si è risolto in questo modo per serenità di tutti. Io non credo, capisco che tipo di Napoli alcuni fischieranno Mazzarri, ma io non credo che Mazzarri vada fischiato, sinceramente. Insomma, ma io invece credo proprio di sì. Sai a chi lo chiediamo? A Serse Cosmi. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Lei crede che verrà fischiato o no Mazzarri questa sera a Napoli? Ma non lo so, questo di solito i fischi hanno un valore affettivo a volte, insomma quando si è voluto molto bene una persona si può stare che magari uno si senta diciamo tradito, uso un termine forte che ovviamente non è quello che è stato poi la situazione Mazzarri, allora ci può essere, però credo che in generale insomma sarebbe ingiusto, perché poi Mazzarri ha fatto parte di questa rinascita del Napoli negli ultimi anni e insieme alla società, ai giocatori e al pubblico è stato decisivo. Sì, ma è così necessario? Perché prima ci chiamavano tifosi del Napoli dicendo Mazzarri non ha mai mangiato la mozzarella qui, non si è mai calato nella parte del napoletano. Cioè, è così necessario travestirsi da ultrà della squadra per poter poi essere ricordato bene? O è una stortura del nostro calcio? Perché io non lo capisco, faccio fatica, lo dico dalle 5, non lo capisco. Guardi, le dico questo, io sono stato accusato del contrario, spesso, quindi di essermi troppo integrato con quello che è la mentalità della città, con quelle che sono le cose, insomma, da vivere, insomma, perché poi alla fine tu fai un lavoro, ovviamente, che inevitabilmente ti coinvolge, inevitabilmente... devi saper vivere in quel contesto, però è anche vero che poi le società vogliono i risultati e questi sono quelli che poi determinano tutto, insomma, voglio dire, se lui molto probabilmente si fosse integrato troppo con una città meravigliosa, però insomma difficile da vivere come Napoli, non credo che avrebbe resistito 4 anni e soprattutto non avrebbe ottenuto quei risultati. Però può anche succedere questo, insomma i caratteri sono diversi, quello che si chiedeva lui credo che era assolutamente, insomma, ridare un'identità, ottenere risultati, far giocare dei giocatori, lanciare dei giocatori, e credo che questo non si possa di sicuro togliere alcun merito alla sua persona. Poi tu pensa, Serse, Giovanni, a Capello, Capello a Roma, no? Insomma, Capello a Roma è stato comunque un allenatore vincente, ormai ama Roma tantissimo da un punto di vista estetico, turistico e di interesse proprio artistico, però non è mai stato uno del popolo, uno che si è mescolato con la città più di tanto, se non con un gruppo di intellettuali in zona San Lorenzo, che in un ristorante che frequentava spesso, ma insomma ha fatto le fortune della Roma proprio perché è riuscito evidentemente a tenersi distante da certi eccessi. Ci fu un famoso episodio della festa mancata per lo scudetto il giorno dopo la vittoria dello sì, scudetto. Sì, va bene, no, io questo è vero, io credo che poi ci si dimentica spesso che l'allenatore è un uomo e come tale ha un proprio carattere, ha una propria personalità, ha una maniera di esprimersi diversa dagli altri, insomma, voglio dire. Quindi io per esempio quando sento dire di allenatori che vivono 24 ore su 24 ore nelle varie posti di ritiro, diciamo così, delle serie, non è che, non dico che inorridisco, però insomma voglio dire che secondo me è un limite, perché poi non è che se tu fai l'allenatore anche in grandi città necessariamente ti devi tirar fuori da quelle che sono un po', solo limitare le cose, perché sono città che ti devi calare 100% soltanto su quello che è l'ambito lavorativo, il ritiro. Ma poi Giovanni, secondo me la cosa più importante è essere se stessi, può sembrare una banalità, ma insomma, esatto. No, se, Mazzarri non ha un carattere particolarmente avvezzo, diciamo, al coinvolgimento della città, perché gli piace stare tranquillo, gli piace tornare a Empoli tutte le volte che vuole, ma perché doveva curarsi? Sì, perché dovevano scoprirlo, secondo me, negli ultimi due mesi? Che Benitez sappia, perché un po' lo conosco, invece proprio questo atteggiamento da uomo del Mediterraneo che ama un certo tipo di socialità, un certo tipo di rapporto più carnale, più viscerale con la città e con l'ambiente. Però ecco, poi secondo me se no, è come Serse, no? Cioè, perché uno deve nascondere, sì, perché la uno natura, deve essere diverso da quello che è. Cosmi, a proposito di allenatori che sono degli uomini, secondo lei l'uomo Allegri, no, che dovrebbero essere degli uomini, o almeno percepiti come tali, l'uomo Allegri, non l'allenatore, come si sente adesso che per la seconda volta in tre giorni arriva Berlusconi, incontra la squadra, spiega, si intesta certamente il risultato positivo perché così è nella tradizione del Milan. Lei come si sentirebbe? Ma guardi, io devo dire che insomma, al di là di quello che si può pensare in generale su Berlusconi, io credo che nell'ambito calcistico la sua presenza sia quasi sempre positiva, insomma, o meglio, anche qualche divagazione magari che sembra forte sotto l'aspetto tattico, poi spesso ha dei riscontri veri, voglio dire, quindi non è che spara delle cose tanto per dirle, non ci sono, mi sembra anche abbastanza appropriate, quindi è poi una figura che inevitabilmente, cioè, è il Milan, voglio dire, quindi che se ne vogliono. Sì, quindi lei ci crede al potere taumaturgico della visita di Berlusconi, che arriva e aiuta la squadra a superare il girone di Champions, magari adesso a risollevarsi in campionato? Ci crede o c'è anche un po' di suggestione? No, io credo ai presidenti che si fanno vedere poco, perché quando si fanno vedere poco incidono di più. Se hanno personalità, se hanno intelligenza, se hanno carisma, voglio dire, quindi io credo che il ruolo del presidente non sia di presenziare settimanalmente, diciamo così, anche lì poi ognuno, ripeto, è libero di farlo come sì, vuole, di interpretarlo come vuole. Pier, ci mancherebbe, però io credo che quando arriva un presidente, insomma, voglio dire, che parla nello spogliatoio in un momento soprattutto difficile, ha un valore, è positivo, è dentro lo spogliatoio, insomma, sì, non è ingombrante, è positivo. Pier, sì, beh, io sono d'accordo, insomma, credo che al di là dei giudizi che ognuno di noi ha sul Berlusconi imprenditore, sul Berlusconi politico, insomma, i risultati nel calcio sono completamente dalla sua parte, e sul fatto che sia comunque un personaggio carismatico, un grande comunicatore, io credo che anche il più acerrimo rivale questo lo riconosce, quindi sull'aspetto tattico non lo so, io che vedo lì spesso metta lì delle suggestioni che sono più che altro delle provocazioni sulle quali poi l'allenatore e la squadra in qualche modo possono lavorare, rielaborare. Io a Berlusconi che fa la formazione ci credo poco, a Berlusconi però che in certi momenti di difficoltà della squadra va nello spogliatoio, ricorda che cos'è lui, che cos'è stata la storia del Milan negli ultimi 25 anni e quindi riesce ad avere una capacità di tirar fuori il meglio dei giocatori, perché no? Poi è chiaro che non è che chi è scarso improvvisamente dopo un quarto d'ora di chiacchierata con Berlusconi diventa un fenomeno, però non vedo controindicazioni. Nessuna controindicazione. L'unica vera controindicazione è che può, se preso male, diciamo, delegittimare l'allenatore in certi momenti, ma mi sembra sì, che insomma, credo che gli allenatori del Milan ci siano abituati. Credo che Ancelotti da questo punto di vista sia il numero uno. Assolutamente. Che... per chiudere poi salutiamo Cosmi, perché lo chiede un amico, 349-238-6666. Mister, noi abbiamo fatto un sondaggio, fallimento o no l'uscita della Juve, cioè ha ragione Conte o ci sta prendendo in giro, qual è il suo voto? Ma io credo che non si possa considerare un fallimento sportivo, voglio dire, perché poi alla fine di quello si parla. Credo che tutti si aspettassero qualcosa di diverso, anche in considerazione del valore degli avversari. Vi faccio una piccola divagazione, ma non nostalgica, ma chiara. Io quando fui eliminato con l'Udinese dalla Champions, in un girone dove c'era Barcellona, che poi vinse la Champions, e non era sicuramente il Real Madrid di quest'anno, era nettamente superiore quello di Ronaldinho, il Werder Bremen che era una grande squadra, il Panathinaikos, uscimmo con 7 punti per differenza reti. Un mese dopo sono stato esonerato, insomma, voglio dire, questo per farvi capire che se poi alla fine la Juve è la Juve, insomma, ha dei valori assolutamente superiori a quelle che erano quelle, le squadre di quel girone, e quindi di conseguenza doveva andare avanti. Aveva la possibilità di poterlo fare, è stata anche un pochino assurda la polemica finale, perché anche lì era una partita che aveva tutte le possibilità per poterla almeno pareggiare. Grazie mister. Ciao, grazie a voi, arrivederci. 800 24 00 24, torniamo. Tutti convocati. Do una notizia. Da oggi potete trovare sulla rete un sito che si chiama Forza Dudu. Non sapevo che il 36% delle persone, i cani e i gatti, li fanno dormire sul letto. 800 24 00 24, caro Pier, oggi Dudu ha fatto il suo debutto a Milanello. Sì, fra l'altro prima della sfida con Dodò della Roma. Meraviglioso. Beh sì, vabbè, dai, uno il cane se lo porta. Soprattutto se si sposta in elicottero, capita a tutti. Non me la sento di dire. Quante volte è capitato a te? Io non ho il cane, quindi... Non hai neanche l'elicottero, secondo me. Ah, non ho neanche l'elicottero, sì. Tra le due, diciamo, è più probabile che possa avere il cane dell'elicottero, tra le due cose, insomma... cane potrei anche provare la verità. Vabbè, comunque oggi non c'era BB ma c'era Dudu, BB sta per Barbara Berlusconi, esatto, c'era Gagliani, poi vediamo domani, poi sentiamo anche Allegri, sentiamo Rudy Garcia, domani torna anche Totti, motivo in più per non perdersi Milan-Napoli. 800 24 00 24, Teresio dalla provincia di Cremona che ci sta aspettando da qualche minuto. Teresio, buonasera. Buonasera carissimo. Prego. Dunque io mi riferivo all'intervista che è stata fatta poco fa al direttore, mi pare, del sì, Tutto Sport, Vittorio Reggia. Ecco, con il quale si è parlato dei bimbi che ancora partecipano stasera alla partita con il Sassuolo, no? Sì, partita che tra l'altro è iniziata da 3 minuti ancora 0-0 e attenzione perché è stato il Sassuolo ad avere l'occasione per portarsi in vantaggio, però prego Teresio. Ecco, no, io dicevo che il dottor Reggia, parlando appunto a proposito della sanzione che è stata data l'altra volta per la parolaccia, che per me fra l'altro è stata sollecitata da grandi e non sia stata una cosa, diciamo, voluta dai bambini, e mi era parso che nel caso in cui ancora si fosse ripetuto, in questo caso stasera, una cosa del genere, il dottor Reggio si augurava che l'arbitro non facesse nessun riferimento per evitare che facesse finta di niente, certo. Ma e questo mi pare che sia del tutto sbagliato, però come criterio. Se a un certo punto dobbiamo evitare che i bambini facciano quello che abbiamo fatto noi finora, cioè i bifolchi negli stadi, non vedi il perché tacere se una cosa dovesse verificarsi nuovamente. Sì, perché glielo dico io, Teresio. Per evitare che si possa continuamente ripetere. Sì, glielo dico io, Teresio. Poi ci sono le regole. Cioè, se tu punisci con una multa simbolica, perché 5.000 euro è una multa simbolica, Pier, per una società di Serie A, ma se tu punisci una parolaccia allo stadio con una multa, allora lo devi fare sempre. E siccome non è stato fatto mai prima e non è nemmeno stato fatto dopo, in realtà, cioè nella giornata successiva, ti rimane quella sensazione di qualcosa fatto un po' così, per andare dietro all'onda, all'onda mediatica, e non va bene, parola, non va bene. Quella stessa parola viene ripetuta sempre, spesso e anche di peggio. Se multassimo quella parola e tutto quello che di peggio viene detto negli stadi, saremmo a dare multe continuamente. Qui c'è l'aggravante, ovviamente, per chi la vuol vedere come un'aggravante, che l'hanno pronunciata dei bambini. Però ecco, io veramente cerchiamo, insomma, abbiamo passato una settimana a parlare di quella parola, no, mi sembra superata. Speriamo che oggi non la dicano. Certamente sarebbe bello sentire i bambini dire semplicemente forza Juve o forza Sassuolo, però insomma, in assoluto, in generale io penso che abbiamo altri problemi nella vita. Sì, decisamente. Sentite, ma vogliamo parlare del Torino settimo con Roberto Cravero, che è qui in macchina con me? Parliamo del Toro. Lungomare di Napoli, una cosa straordinaria. Cravero, vuoi dire qualcosa? Aspetta, adesso vi passo Cravero, per favore. Ciao Roberto, buonasera. Pronto? Pronto, buonasera Roberto. Buonasera, un piacere. Meraviglioso Torino, settimo. Fantastico. Oggi ha vinto una partita, l'ha vinta anche bene. Tra l'altro, lo dico anche a Pier, noi portiamo benissimo Urbano Cairo, ospite il 1° dicembre, poi Torino-Lazio 1-0, Udinese-Torino 0-2. Io questo lo dico agli altri presidenti, quelli che fanno un po', che si fanno un po' attendere a questi microfoni. Portiamo benissimo noi. Dove può arrivare questo Toro? No, può arrivare distante perché, come hai detto te, che tutti i punti, questa classifica è arrivata tramite un gioco spettacolare. Abbiamo visto il primo gol di oggi, veramente un contropiede, quattro passaggi di prima, un giocatore davanti al portiere, colpo sotto, cioè veramente stanno giocando bene. Anzi, ti dico una cosa, questa è già una gran bella classifica, ma se analizziamo tra virgolette, ma mancherebbero dei punti, perché veramente in alcune partite il Toro è stato penalizzato. Sì, c'è spazio anche per qualche rammarico. Intanto saluto Fabrizio Ravanelli, che ci ha raggiunto. Buonasera Fabrizio. Buonasera ti, a tutti. Ti presento Roberto Cravero, non so se lo conosci. Ci conosciamo. No, ciao, immagino che vi conosciate. Immagino. Fabrizio, ci dai un voto sul Toro, anche se sei, insomma, dell'altra sponda calcistica. Non vuol dire niente, sta facendo una grande stagione, sta facendo grandissime cose, credo che questa sia anche una continuità della programmazione che sta facendo il Toro con intelligenza. Ha avuto pazienza, ha continuato a lavorare sotto un punto di vista importante, ha dato continuità al lavoro, e credo che quando si dà continuità al lavoro e al progetto, poi vengono anche i risultati, è quello che sta avendo il Torino quest'anno. Sì, tra l'altro voto altissimo, e lo chiedo a tutti e due, per Ventura, che non è soltanto l'allenatore del 4-2-4, ha saputo inventare un Torino diverso, valorizzare i giocatori che ha, soffrire anche, credo che esca ingigantito da questa prima parte di stagione. Che voto gli diamo? Prima Roberto, poi Fabrizio. No, molto, molto altissimo, ma non soltanto per questa stagione, per i suoi anni al Torino. Comunque il Torino è stato sempre protagonista, è stato protagonista con un gioco di alto livello, ha valorizzato dei grandi giocatori, non per ultimo Cerci, che sta facendo delle cose straordinarie. Ma tu lo porteresti al Mondiale, Cerci? No, assolutamente sì. Poi non è detto che Prandelli lo faccia giocare, però se lui a un certo punto... Prandelli volesse cambiare modulo, il giocatore può essere utile, gli permetterebbe questo, è assolutamente Cerci. Io adesso ti passo Pardo, che mi sta sbraitando dietro, che è geloso di questo mio intervento all'improvviso. Un saluto, è stato un piacere. Riprendiamo Pier allora. Fabrizio, tu lo porteresti Cerci, Fabrizio Ravanelli? Sì, sicuramente, sta dimostrando una grande forza fisica, bravo, sta dando continuità alle sue prestazioni, quindi anche un giocatore che sa creare la superiorità numerica, e oggigiorno non è facile trovare giocatori che sanno creare la superiorità numerica, un giocatore che sta dando continuità, è diventato anche un giocatore importante, si è assunto parecchie responsabilità, sta diventando anche il leader di questo Torino, quindi credo che sia da tenere in considerazione per la nazionale, per i mondiali. Pierluigi, è caduto Pierluigi Pardo, allora lo recuperiamo Pierluigi Pardo, che dovrebbe essere oramai nei pressi dello Stadio San Paolo di Napoli. A proposito di Napoli-Inter, Fabrizio Ravanelli, di questa sera, è una partita da dentro o fuori per il Napoli? Non credo sia una partita a scudetto, non credo possa essere definita tale, ma per il Napoli secondo te è una partita da dentro o fuori, quella in cui c'è soltanto un risultato, altrimenti cambiano le prospettive della stagione? Ma io credo che più importante del Napoli sia importante per l'Inter. Credo che se l'Inter fallisse anche questa sera, questo appuntamento, dopo le ultime risultati negativi, sarebbe già una stagione quasi fallimentare. Questo inizio di stagione veramente l'Inter a me non è piaciuto come ha giocato. La squadra che prende troppi gol, gioca in maniera non come magari eravamo abituati a vedere anche il Napoli di Mazzarri. Non ha continuità nel gioco, ha troppo altalenante, quindi credo che il Napoli questa sera, se sarà capace di ripetere la partita come con l'Arsenal, potrà riuscire a vincere la partita facilmente. L'Inter credo che debba trovare gli equilibri, soprattutto a livello difensivo, perché non può subire una squadra in casa 3 gol dal Parma, con tutto il rispetto per il Parma. Certo, Pier. Ma io prima ti devo dire appunto che è una partita più importante per il Napoli, secondo me per tutte e due, sinceramente, nel senso che è chiaro, l'Inter, non dobbiamo dimenticarci il punto di partenza, quindi i disastri di stramaccioni dell'anno scorso, i 53 gol subiti. È chiaro che Mazzarri sta facendo bene, però insomma adesso, siccome il calcio è materia liquida che cambia di settimana in settimana, il clima è cambiato improvvisamente, al di là dei presunti, non so quanto veri, di sapori o nervosismi fra Moratti e Toir, c'è una squadra nelle ultime 3 partite, ha fatto 3 pareggi con Bologna, Samp e Parma, che ha faticato e ha concesso gol pure in casa contro il Trapani in Coppa Italia, quindi è una squadra che si sta un po' sgonfiando, e anche alla luce del risultato della Fiorentina di oggi, insomma, se l'Inter dovesse uscire male da questa serata, secondo me insomma il clima cambierebbe molto. È chiaro che per il Napoli, per gli obiettivi di partenza, è più partita per il Napoli, perché il Napoli è partita per vincere il campionato, comunque per andarci molto vicino, ed è già molto indietro rispetto alla Juve, lo vedremo Juve Sassuolo, quindi probabilmente da quel punto di vista per il Napoli è ancora più partita, però anche Mazzarri in questo momento secondo me non se la passa più così bene come un mese fa. Sì, ma che voto diamo, Fabrizio, fin qui alla stagione del Napoli? Hai detto che l'Inter ti ha deluso, il Napoli che è pur sempre in questo momento con la Juve sullo 0-0, siamo al 12° di Juventus Sassuolo, si trova a 9.9 dalla Juventus, insomma è un distacco importante. Ma il Napoli darei un bel 7.5-8, perché è una squadra che comunque, al di là della delusione della partita con la Juventus, poi non dobbiamo dimenticare che è uscita da un girone, anche se è uscita di Champions League, ma rafforzata a livello mentale, credo che abbia fatto 12 punti, solo il Paris Saint Germain nella storia della Champions League è stata capace di uscire come il Napoli a 12 punti. Sì, quindi tra l'altro con una formula diversa, quindi Napoli ha certamente fatto bene. Certo, ma ha fatto un girone di Champions League straordinario, quindi credo che al di là di tutto il Napoli io non lo vedo così deludente questo inizio. Anzi, il Napoli ha fatto tantissimo, anche perché ha cambiato allenatore, non era facile, è vero, ha speso tanto, però è un Napoli comunque che è stato capace di battere i vice campioni d'Europa, ha battuto l'Arsenal prima nel campionato inglese, quindi ha dato dimostrazione comunque di una forza, è cresciuta tanto. Resta la prima avversaria della Juventus? Ma io penso di sì. Insomma, cioè non credi nella Roma? Sì. No, credo nella Roma, ma credo che sotto il punto di vista del gioco mi piace più il Napoli che la Roma. La Roma mi sembra un 4-3-3 molto difensivo, o un 4-5-1, spesse volte gioca con il finto attaccante, è un po' una squadra molto speculare. Credo che Garcia abbia capito subito com'è il campionato italiano, e i giocatori, dopo anche la delusione della finale di Coppa Italia, come diceva anche De Rossi, gli sono andati dietro e hanno capito che dovevano veramente cambiare rotta, e quindi credo che questa forza del gruppo, insieme anche alla volontà di Garcia di capire e di ambientarsi subito al calcio italiano, ha fatto sì che la Roma è ancora imbattuta. Credo che giochi un calcio molto intelligente sotto il punto di vista dei risultati, un po' più spettacolare credo il gioco della Juventus e del Napoli. Grazie. Anche se la Roma ha fatto delle buone partite. Certo, grazie Fabrizio. Grazie a voi. Grazie Fabrizio Ravanelli. Pier, andiamo sul traffico, poi facciamo il giro d'Italia perché abbiamo tanti ascoltatori. Traffico. Tutti convocati. Intanto, caro Pieri, punti virtuali di distacco del Napoli dalla Juventus sono diventati 11 perché ha segnato Tevez. Juventus 1, Sassuolo 0, azione sulla destra, conclusione di Pogba, respinta corta di Pegolo e Tevez a due passi l'ha messa dentro. Quindi Juventus 1, Sassuolo 0. Credo che questa sera per il Napoli urgano i tre punti, io lo ribadisco. Secondo me quella di questa sera è una partita, caro Pier, più importante per il Napoli che per l'Inter, perché segna una sorta di spartiacque. Anche il 7.5 di Ravanelli adesso mi sembra altino, mi sembra alto, nel senso che comunque alla fine, a parte bisogna distinguere fra campionato e Champions. In Champions, no, ma in Champions li puoi anche dare 9 per carità, insomma, voglio dire, poi potevi perderla meglio a Londra con l'Arsenal, potevi stare un po' più attento a Dortmund, però che vuoi dire al Napoli, che gli vuoi dire? Niente. Però in campionato non lo so. Giuliano da Salerno, buonasera. Pronto? Prego, mi dica. Sente? Buonasera. Sì. Allora, senta, io sono juventino, però sta Juve che vince sempre ha scocciato un po'. Sì. Ormai il campionato... sono juventino. Lei è un finto juventino, Giuliano, dica la verità. Vabbè, però vince sempre, ormai il campionato è finito, vabbè, lasciamo stare. Volevo dire due cose velocissime. Riguardo i cori di Juventus, qual è la squadra dei bambini? Sì. Allora... Durante Italia-Germania, che si è giocata a Milano, qualche mese fa l'amichevole, è successa la stessa cosa. I tifosi che stavano a San Siro gridavano quella parolina al contatto del portiere. Sì, ma succede anche di peggio, Giuliano. Ho capito, però... ma la Lega, ma in quel caso chi ha pagato? Ma quale Lega? Italia-Germania? Chi ha pagato i corridati? Vabbè, ma un'altra cosa. Riguardo il Napoli, volevo dire una cosa. I tifosi devono fare i tifosi. Ma Mazzari ha dato tanto al Napoli, perciò stasera deve essere soltanto applaudito. E poi finiamolo con queste cose, la mozzarella non l'ha mangiata, ma i tifosi devono stare al loro posto, basta. Sono d'accordo con lei, devono Giuliano. Devono stare al loro posto. Sono d'accordo con lei su questa seconda parte, Pier. I tifosi devono fare i tifosi. Ma che mozzarella? Avete chiesto un'analisi psicanalitica o antropologico-culturale su perché Mazzari non è stato così tanto amato a Napoli alla luce dell'intervento di quell'ascoltatore, è un ragionamento che ci sta. Poi, ripeto, in sostanza è che se il Napoli è dove è oggi, lo è anche grazie a Mazzari, anche grazie al lavoro di Mazzari, nei quali che sono stati cresciuti tantissimo, ottenendo risultati incredibili, insomma, e quindi certo c'è poco da discutere di questo. Assolutamente. Massimo da Napoli, buonasera. Buonasera. Allora, prego Massimo. Rispondo un attimo a questa... all'amico, no, quello di Salerno, la persona che sta parlando. Il tifoso juventino. Sicuramente noi dobbiamo qualcosa a Mazzari, però non dimentichiamo che Mazzari senza Cavani avrebbe fatto la fine di Sacchi, senza quel Milan che potevo allenare anche io con quel Policlub. Prima cosa. Secondo il parlo del Milan di Gullit, Van Basten e compagni, si è visto dopo Sacchi quello che è riuscito a fare. Questo è quello che penso io. Sì. Per quanto riguarda invece i fischi a San Paolo, si dovrebbero dividere, perché all'allenatore in sé per sé dovrebbero andare solamente degli applausi, ma visto che questo non si può fare, io credo che Mazzari prenderà una grossa bordata di fischi, perché come uomo non è stato tale, poteva evitarsi una pantomima esagerata sapendo che ormai da mesi doveva andare all'Inter, quindi tutte quelle messe in scena le doveva evitare, perché ha buttato via tutto per un mese e mezzo di teatrino con il nostro presidente. Grazie Massimo. Io non sono nemmeno convinto, però, Pier, che con questo Napoli senza Cavani Mazzari in questo momento sarebbe in una situazione peggiore rispetto a quella di Benitez. Non riesco. No. Certo che questo è un Napoli costruito non per Mazzari, quindi diciamo il paragone è anche difficile. Adesso sinceramente Mazzari è un allenatore bravissimo, un allenatore che ha una percentuale di stagioni positive vicino al 100%, cioè i fallimenti nella carriera di Mazzari si contano, ma neanche sulle dita di una mano, si contano come il numero degli esoneri, cioè zero. Appunto, ecco. Appunto, quindi unico. Si può discutere sicuramente su un tipo di gioco, su un certo tipo di mentalità, probabilmente è un calcio che a certi livelli rischia di essere un po' troppo ripartenza per poter avere una squadra completamente dominatrice. questo è un ragionamento che si può fare, ma che Mazzarri in questi quattro anni abbia fatto cose eccezionali non ci sono dubbi, che addirittura mi viene da dire che in qualche partita di Champions, per esempio nelle due sconfitte a Londra e a Dortmund, forse un po' della cattiveria agonistica del Napoli di Mazzarri è mancata in quei momenti. Il Napoli ha avuto probabilmente delle fasi di qualità di gioco in questa prima stagione di stagione superiori a quelle che aveva mediamente il Napoli di Mazzarri, ma in certe circostanze ha avuto meno adrenalina, meno compattezza e meno intensità. Quindi per me ad oggi la sfida tra i due allenatori è X, nel senso che secondo me sono due ottimi allenatori e non mi sento di poter dire che uno abbia fallito e l'altro abbia fatto bene. Insomma, certo, intanto, Pier, siccome so che sei appassionato, ti segnalo il tweet del nostro amico Boris Sollazzo. Ecco il coro delle voci bianche, anzi marroni. Allo Juventus Asylum ci si diverte come si può, lo scrive anche qualche altro collega, e quindi se non siete davanti alla televisione a vedere la partita, ve lo diciamo noi, l'hanno rifatto domani tutti a spulciare nel dispositivo del giudice sportivo per vedere che cosa succede. Marco da Napoli, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera. Io innanzitutto volevo dissentire con quanto aveva detto Ravanelli prima riguardo l'Inter. Io sono napoletano, ma tifo per l'Inter. Sì. Perché non dobbiamo dimenticare che l'Inter è ancora il primo attacco del campionato, credo, numeri alla mano. Per quanto riguarda i tifosi del Napoli, stasera credo che non debbano né applaudire né fischiare Mazzarri, ma debbano solamente inchinarsi. Perché Mazzarri ha fatto cose mirabilanti con una squadra di mezze tacche. Se escludiamo Hamsik, Lavezzi Cavani e qualche altro, ha fatto la Champions League con Aronica e Grava. Non ce lo dimentichiamo, con tutto il rispetto per Aronica e Grava, ma non sono certamente giocatori da quei palcoscenici. E poi comunque è stato grandioso nel rivalutare giocatori come Zuniga, Inler, Gemaili, insomma non andiamo oltre. Lo stesso sta facendo all'Inter, dove Jonathan, che era un fantasma, è diventato un terzino. Sì, Alvarez è risuscitato. Alvarez, che era una signorina, è diventato un giocatore. Certo. Adesso, quindi, credo che Mazzarri debba essere solo ringraziato dai tifosi del Napoli per tutto quello che ha fatto. E se loro hanno fatto per due volte la Champions, devono dire grazie a lui, e se lui avesse avuto gli investimenti che ha avuto Benitez, probabilmente avrebbe fatto altro. Benitez a dicembre, a mio avviso, ha già fallito i suoi programmi, perché lui, per fare meglio di Mazzarri, avrebbe dovuto vincere. Sì, però ecco, visto, grazie Piero, visto che ragioniamo intorno, Piero, alla parola fallimento, ecco, io questa la trovo un'esagerazione, perché poi hai fatto 12 punti. Se ragioniamo attorno alla parola investimenti, è vero che Napoli ha speso, ma anche sì, aveva venduto, cioè, molto. Ha venduto Cavani, quindi alla fine la campagna acquisti a Napoli quest'anno non è che sia stata una campagna acquisti faraonica, come parlano bene, è stata una campagna acquisti nella quale si è speso qualcosa, credo che le spese abbiano superato i ricavi, ma nella quale comunque il sacrificio di Cavani, per quanto ben pagato, è un grande sacrificio, perché penso che insomma non lo possiamo discutere come giocatore uno. No, Piero da Trento, proviamo a vedere se recuperiamo Pier, ma siamo comunque in chiusura. Piero, buonasera. Salve, buonasera. Prego. Ma io volevo fare alcune considerazioni riguardo. Sì, ne faccia una perché abbiamo meno di un minuto. Allora, una sola cosa, quello che diceva Cosmi prima, a proposito che Berlusconi sia un ottimo motivatore, può anche essere, non lo so. Vuol dire, però, sul fatto che sappia dare consigli adeguati, insomma, vuol dire, qualche dubbio ce l'ho. Io ricordo ancora la situazione quando si mise a criticare Zoppo, quella famosa semifinale dell'Europeo. Sì, la finale dell'Europeo del 2000. Avevamo la miglior squadra, meglio ancora di quella del 2006. E lui criticò tantissimo Zoppo, tra l'altro, voglio dire, è una cosa che penso che vada segnalata. Ma Berlusconi è fatto così, prendere o lasciare. Secondo me per i tifosi del Milan meglio prendere, visti i risultati di 25-26 anni, però è fatto così, ci sono anche delle controindicazioni, soprattutto gli ultimi allenatori hanno anche verificato di persona il lato B di Berlusconi. Ma hai perfettamente ragione, io volevo solo dire sul fatto che lasciamoli lavorare, perché il mondo è cambiato. Io ricordo qui da mia parte quando venne il Napoli di Maradona proprio qui da noi ad allenarsi, e adesso con quest'estate ho visto lavorare Mazzarri, lavorano bene, sono persone, sono professionisti. Sì, non c'è dubbio. Grazie Piero, abbiamo finito, appuntamento domani alle 14.05 con tutti i convocati, Carlo Genta, Pierluigi Pardo. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Valeria Bernardi e Pietro Lacorte in regia. Un saluto anche da Giovanni Capuano.